questo è quell'attimo che ho perso, che scappa sempre con i tuoi vestiti addosso. E non esiste che è scontato che esistiamo, così come è scontato che esiste la neve. E forse esisti tu, paragrafo del cielo. E allora esiste il cielo. Neanche l'alito del mondo, non esistono le stagioni e i cambi d'umore, non esiste salvarmi dalle attitudini e non esiste neanche l'amore. E forse esisti tu, paragrafo del cielo, e allora esiste il cielo. Chiedermi scusa se t'amo, e non esiste intrattienimi l'anima, intanto che fuggo tra i vicoli del gioco, e tu sei già storia della mia storia. Forse esisti tu, paragrafo del cielo, e allora esiste il cielo. Giochi su.